Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e a tutti da Frey, ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Eccoci, siamo a una delle ultime puntate, se non l'ultima puntata di You Say You Wanna Revolution, la speciale rubrica che abbiamo dedicato in questo 2017 delle rivoluzioni e degli anniversari delle rivoluzioni. Parleremo anche questa puntata di rivoluzione, anche se dobbiamo fare una piccola premessa che salutando You Say You Wanna Revolution diamo il benvenuto ad un'altra rubrica che inauguriamo quest'oggi, che è quella di un classico alla radio. Un classico della storia, della storiografia, discusso da uno storico, da una storica, da un autore, da uno scrittore, scrittrice, da vedremo un po' con chi cammin facendo. Nella prima puntata di questa speciale rubrica abbiamo voluto invitare un nostro amico, una vecchia conoscenza di Van Loon, che è Antonio Toni Senta. Ciao Toni. Ciao a tutte e a tutte. Bene, abbiamo invitato Toni Senta perché? Perché Toni è uno storico del movimento operaio, storico dell'anarchismo, ricercatore ma anche dell'Università di Trieste, ma anche militante, che è uno dei promotori, degli organizzatori del convegno che si terrà l'1 e il 2 dicembre del prossimi a Reggio Emilia. Il convegno è Gli Anarchici e la Rivoluzione Russa, che si terrà all'Università di Modena e Reggio Emilia, all'Aula 1, Viale Allegri 9, Reggio Emilia, dopo le indicazioni ve le ridaremo, ed è un seminario per l'appunto su una tematica che in questo anno di anniversario della rivoluzione di ottobre, della rivoluzione di febbraio, quindi della rivoluzione russa, non è stato molto toccato, per l'appunto il ruolo degli anarchici all'interno della rivoluzione e della ricezione da parte del movimento anarchico della rivoluzione. Due informazioni su Antonio Senta, che dicevamo essere storico del movimento operaio. Vi segnaliamo qualche testo curato e scritto da Toni. Partiamo con A testa alta, la biografia di Ugo Fedeli, che ha curato per Zero in condotta, edita nel 2012, un libro molto bello. E sono un po' di parte, ve lo confesso. E poi ricordiamo anche Utopia e Azione, per una storia dell'anarchismo in Italia 1848-1984, edito invece da dell'Eutera di Milano. E un altro testo uscito sempre dall'Eutera proprio in questi giorni, pubblicato insieme a Guido Candela, è La pratica dell'autogestione, di cui probabilmente vi ridaremo segnalazione. Bene, abbiamo invitato Toni per parlarci di un libro, il classico di questa puntata. Toni, qual è? La rivoluzione sconosciuta di Volin. Un testone molto grosso sulla rivoluzione russa che andremo a recuperare. È il nostro classico della settimana, è un classico che ci racconta della rivoluzione russa e che ci racconta per l'appunto un aspetto dimenticato per l'appunto della rivoluzione russa, che è stato anche quello del ruolo degli anarchici e del movimento anarchico all'interno di questa rivoluzione, di cui spesso si ricorda, per l'appunto si ricordano i bolscevichi, se proprio va bene i menscevichi, capitasse i menscevichi, poi le forze della reazione naturalmente, ma del ruolo degli anarchici purtroppo non se ne parla poco. Entriamo subito nel libro, cercando di capire chi è l'autore di questo libro. Chi è Volin? Ma Volin è un anarchico russo, il compagno, uno stretto compagno di Nestor Makhno, a differenza di Makhno però un intellettuale. Ha giocato una parte importante sia nella rivoluzione del 1905, sia poi nel movimento in esilio e infine nelle due rivoluzioni del 1917. Nel 5 era un socialista rivoluzionario, altra corrente oggi dimenticata direi, e come socialista rivoluzionario fu uno dei fondatori del Soviet di Pietroburgo. Quindi già da questo capiamo come i Soviet non furono una invenzione della rivoluzione dell'ottobre, ma hanno una storia antica, tra virgolette, nella Russia rivoluzionaria. Effettivamente per la sua attività poi nella rivoluzione, nella prima rivoluzione del 1905, fu catturato dall'Ucraina, dalla polizia segreta russa, e dopodiché riuscì a scappare e a rifugiarsi in Francia. Giocò un ruolo importante, a questo punto era diventato anarchico nel movimento anarchico, ma operaio anche francese, svolse un importante ruolo in senso antimilitarista durante la prima guerra mondiale e per scappare sostanzialmente dalla guerra, da un arruolamento probabile, decise di emigrare, di fuggire anche dalla Russia e di arrivare negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si unì all'Unione dei Lavoratori Russi, che univa i lavoratori russi degli Stati Uniti e del Canada, era un'organizzazione anarco-sindacalista con circa 10.000 aderenti. Quando nel febbraio 17 scoppia la rivoluzione in Russia, ovviamente torna il prima possibile e divenne una figura leader, se vogliamo, del movimento anarchico in Russia. Fu lui che editò un importante periodico, Golostruda, cioè la voce del lavoro, e divenne anche il leader, possiamo usare questa parola, della confederazione Nabat, che era una delle principali federazioni anarchiche russe, e elaborò una sorta di anarchismo che lui chiamava anarchismo unito, che voleva dire riunire le varie tendenze, anarco-individualismo, anarco-sindacalismo e così via, in un'unica organizzazione basata sul mutuo appoggio. Nel 1919 si unì all'armata insurrezionale macnovista, di cui dopo direi che avremo occasione di parlare, e si occupò in particolare del lato educativo, culturale, di propaganda. E infine nel 1920 fu arrestato dall'Armata Rossa, passò in carcere un certo periodo e fu infine liberato dopo le proteste degli anarchici in Russia e fuori dalla Russia. Una volta liberato tornò nuovamente nell'esercito macnovista e subì nuovamente la stessa sorte. A quel punto Lenin in persona decise di scarcerarlo, sì, ma di espellerlo dalla Russia affinché non tornasse mai più. Si stabilì prima a Berlino e poi a Parigi, dove giocò anche qui un ruolo importante nel raccontare al mondo la repressione nei confronti delle opposizioni politiche, in particolare degli anarchici, da parte dei leninisti. Sì, poi mi viene da dire che anche questo ruolo del raccontare l'opposizione sociale, l'opposizione politica ai bolscevichi è stato qualcosa di molto significativo, di cui immagino che si parlerà anche nel convegno a Reggio Emilia, perché ricordiamo che da parte del movimento rivoluzionario, anche da parte del movimento anarchico, in un primo momento la rivoluzione russa venne accolta come un trionfo. Ricordiamo sempre il celebre episodio di quando Enrico Malatesta, una delle figure più note dell'anarchismo, ritornò dall'esilio, che venne salutato come il Lenin d'Italia. Piccola parentesi. E entriamo per l'appunto nel libro. Il libro è come dicevamo, un bel librone di 700 pagine che raccoglie non solo la ricostruzione della storia della rivoluzione russa, e adesso ci faremo raccontare da Tony in che maniera racconta la rivoluzione russa, ma raccoglie anche documenti, molto belli i documenti che vengono messi a completamento dei vari articoli, in cui troviamo i volantini, materiali che immaginiamo per quando uscì il libro erano quasi introvabili, scarsamente conoscibili da parte del pubblico occidentale soprattutto. Quindi, Tony, com'è questo libro? Com'è strutturato? Che mondo, che rivoluzione racconta Volin? Beh, innanzitutto vorrei dire che questo libro è uscito in Francia nel 1947 come prima edizione, e in Italia sono uscite diverse edizioni negli anni 50, negli anni 70 nuovamente, e infine l'edizione a cui mi sento di fare riferimento è sicuramente quella del 2010 a cura delle Edizioni Anarchiche Insurrezione. Perché dico questo? Perché è l'unica completa. È quindi diciamo un libro anche sicuramente prolisso, ma un libro secondo me rivelatore del carattere sociale della rivoluzione russa. Che cosa si intende per rivoluzione russa? Volin lo dice da subito, dice si può intendere per rivoluzione russa sia l'intero movimento rivoluzionario che lui fa partire dalla rivolta dei decabristi 1825, sia le due, quelle che chiama vibranti scosse del 1905 e del 1917, sia unicamente la grande esplosione del 17. Ecco, lui fa riferimento al primo, come dire, metodo, quindi fa partire la rivoluzione dal 25 ed è una lunga rivoluzione, ma vedete curiosamente che in nessuna di queste tre opzioni non è neppure contemplata il fatto di parlare solamente dell'ottobre 17. La grande esplosione del 17 è comunque sempre quella del febbraio e dell'ottobre. Sì, esatto, questo mentre come stavamo per entrare in studio si discuteva con Tony per l'appunto del fatto che molto spesso nell'arco di quest'anno di ricorrenze si è parlato dell'ottobre rosso. Ottobre rosso, per carità, molto, molto evocativo, un momento molto significativo, ma che ha avuto un precedente, per l'appunto, dei precedenti, come dice Volin, ma anche un grosso precedente per il semplice fatto che la rivoluzione inizia a febbraio, di fatto. E come racconta questa rivoluzione? Ma questa rivoluzione appunto è vista con uno sguardo di lungo periodo, come avrete capito, e questo ci permette di capire diverse cose, ci permette di capire il carattere sociale del movimento rivoluzionario russo e appunto quindi anche, diciamo, i suoi mezzi, per esempio i Soviet che svolge un ruolo importante già nella rivoluzione del 1905, poi nuovamente nella rivoluzione del febbraio 17 e solo dopo la rivoluzione del febbraio 17 e poi con l'ottobre verranno egemonizzati dal bolscevismo. Questo è sicuramente un discrimine tra una rivoluzione, diciamo, sociale e una rivoluzione che si fa vie più politica. Bene, allora facciamo una piccola pausa e ci ascoltiamo una canzone. E vi proponiamo una canzone di Alessio Lega, un cantatore anarchico. Vi proponiamo Mare Nero, un pezzo che ci piace molto. Noi siamo il Mare Nero che di giorno sta calmo, si muove lentamente, si cela nel profondo. In un fruscio leggero intona il proprio salmo, canto che gli giunge dal termine del mondo e porta di lontano profumo di speranza, invade la tua stanza, ti fa sentire strano, ti fa apparire estraneo al gregge dei montoni condotti nel macello al suono dei milioni. Noi siamo il Mare Nero che di notte protetto dal buio si alza in onde, si butta sulla riva e se si tira indietro si avvolge nel suo letto per assalire l'argine con forza ancor più viva. Abbiamo vele nere per spingerci nel mare, ma non sono bandiere, attenti a non sbagliare. Noi siamo libertà, ciò che più fa paura, sospesi al centro esatto tra coscienza e natura. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Noi siamo il Mare Nero, la tenebra feroce, sparsa sulle piaghe aperte del sistema. Il nostro sangue infetto ne avvelena la foce e la mano del boia mentre colpisce trema. Perché non c'è maniera di strapparci dalla vita, ogni giorno rapita, riscattata ogni sera. Perché non c'è paura che possa incatenare la voce che ogni giorno riusciamo a liberare. Noi siamo il Mare Nero, acque malate sporche, depositiamo dubbi nel ventre d'ogni fede. Abbiamo molte madonne, tutte piuttosto porche, e ognuno di noi è un dio che si tocca e si vede. Ed i nostri rosari sono i caricatori che sgraneremo amari in faccia a loro signori. Noi siamo la paura della classe più ricca, noi siamo la torchiera della corda che ti picca. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Noi siamo il Mare Nero, la dinamite accesa. In questa calma pianta la miccia si consuma. Lavorate tranquilli, andate a far la spesa. Sulla vostra autostrada, sepolti nella bruma. Sulla strada che fate, di fretta e per consumo. Non più nebbiamo a fumo, troverete un'estate. Coglioni come siete, apritevi il cervello. Non confondete ancora l'ultimo campanello. Noi siamo il Mare Nero che un giorno vi ha travolti, vi ha trovato schiavi, vi ha mostrato l'uscita. Ci siamo illusi che voi troppo stanchi dei molti anni nelle catene rivoleste la vita. Ma in cambio del permesso di rientrare nel gregge ci rivendete spesso al potere e alla legge. Perché si ha libertà ciò che più fa paura, sospesi al centro esatto tra violenza e cultura. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Noi siamo il Mare Nero, lutto e disperazione, per un passato triste, per un futuro incerto. È un mondo concepito in guisa di prigione, la tagliola che morde, chi esce allo scoperto. Ci fan sentire l'odori, stanchi anche di gridare, avvelenato il mare, sepolti nei ricoveri, ricoverati, pazzi, matti per troppo amore, con un sudario grigio disteso sul dolore. Ma siamo il Mare Nero, gli aranci della Spagna, agro, zucchero e miele, il vino della terra. Ubriachi di vita, di città in campagna, troviamo i compagni per far guerra alla guerra. Altro che addio Lugano, cantiamo la memoria, occupiamo la storia, dove siamo e restiamo. Dove non siamo andremo, ci andremo per davvero, perché siamo come il mare, noi siamo un Mare Nero. Bene, torniamo in onda, siamo in compagnia con Antonio Senta, storico del movimento operaio e dell'anarchismo, che ci sta raccontando Volin, la rivoluzione sconosciuta. Il nostro classico La Radio racconta degli anarchici all'interno della rivoluzione russa. Qual è stato il ruolo degli anarchici all'interno della rivoluzione russa? Un ruolo che molto spesso, come dicevamo prima, è stato dimenticato. Un ruolo del tutto minoritario fino al 17 di fatto, e dopodiché andò aumentando dal 18 in avanti, con un'influenza che divenne tale che gli stessi bolscevichi si inquietarono di fatto, è quello che ci racconta Volin. E a partire dal 19 fino alla fine del 21 effettivamente il bolscevismo dovette sostenere una lotta molto severa contro i progressi dell'idea anarchica, una lotta così tanto lunga e aspra quanto lo fu quella contro la reazione. Queste sono le parole di Volin. E a questo punto ci mette davanti agli occhi un confronto, che è quello tra le due idee. E scrive questo: l'idea bolscevica era di edificare sulle rovine dello Stato borghese un nuovo Stato operaio, di costituire un governo operaio e contadino, di stabilire la dittatura del proletariato. L'idea anarchica era di trasformare le basi economiche e sociali della società, appunto, senza dover ricorrere a uno Stato politico, a un governo, a una dittatura, e quindi farlo attraverso non un mezzo politico e statalista, ma attraverso un'attività libera, economica e sociale, da parte di associazioni dei lavoratori stessi, ovviamente dopo aver rovesciato l'ultimo governo capitalista. Nel dire questo, Volin dimostra come l'anarchia non sia sinonimo, e allora sia stata intesa non come sinonimo di disorganizzazione, ma come un altro principio di organizzazione, che è un concetto modernissimo, che è stato poi ripreso negli anni 50-60, per esempio, da Colley Ward, un differente modo di organizzarsi. Sì, questo è molto interessante e anche molto bello, soprattutto perché colpisce il fatto che sia Volin a dirlo anche sulla base di quella che è stata la sua esperienza di rivoluzionario all'interno della rivoluzione russa, o diciamo anche della lunga rivoluzione russa, perché giustamente Tony raccontava prima che Volin ha attraversato diversi momenti della rivoluzione russa, della storia, anche della costruzione dello Stato sovietico. Quindi un discorso su quale lui si concentra e attraversa, in particolare cita per l'appunto un momento chiave che è per l'appunto quello della rivolta di Kronstadt, ma poi attraversa di persona anche la rivoluzione anarchica in Ucraina. Certo, sono tutte esperienze vissute in prima persona e in particolare basate su due elementi che accomunano Kronstadt e l'esperienza della macnovicina, del movimento macnovista in Ucraina, cioè il fatto che entrambe le situazioni, seppur molto diverse, fossero accomunate da una ricerca di autoamministrazione, quindi di amministrarsi da sé, da soli, con degli organismi che sono in particolare le comuni e in particolare i soviet, quindi diciamo i consigli del popolo. La popolazione di Kronstadt non sopportava proprio loro, che erano stati all'avanguardia della rivoluzione dell'ottobre, era il fatto che il bolscevismo al potere volesse ingerire, mettere voce, egemonizzare il soviet locale. E contiamo che nella fortezza di Kronstadt abitavano circa 50.000 persone, quindi non solo marinai, e che la piazza di questa fortezza fungeva proprio da agorà. C'era libertà di riunione, c'era libertà di stampa. Queste a un certo punto vennero via via erose e infine il bolscevismo volle proprio sopprimere. A quel punto cominciò la protesta e uno dei volantini che sono arrivati fino a noi hanno scritto queste parole: un cambiamento fondamentale è necessario nella politica del governo. In primo luogo, gli operai contadini hanno bisogno di libertà. Essi non vogliono vivere secondo le prescrizioni dei bolscevichi, vogliono decidere essi stessi del loro destino. E quindi chiedeva di conseguenza la liberazione di tutti i socialisti e tutti gli operai senza partito imprigionati. L'abolizione dello stato d'assedio, la libertà di parola, di stampa, di riunione per tutti quelli che lavorano, la rielezione libera dei comitati di officina e dei rappresentanti ai sindacati e ai soviet. Beh, parole anche molto belle che sicuramente allora furono faticose anche da recepire per chi stava fuori dall'Unione Sovietica. Ricordiamo infatti delle difficoltà con cui anche le voci del movimento anarchico arrivarono in Occidente, cioè ricordiamo anche in questo, correggimi se sbaglio, anche il ruolo del Ugo Fedeli che tu hai raccontato nel raccontare per l'appunto questi passaggi della rivoluzione russa e della costruzione dello Stato sovietico. Prima di chiedere a Tony qualcosa sull'esperienza invece dell'Ucraina e di Nestor Makhno, ci ascoltiamo una canzone che ci mette proprio in tema. Ci ascoltiamo i Beurrier Noir, un gruppo francese che scrisse questa canzone per un CD di autofinanziamento delle Monde Libertaire che si intitola Makhnovicina. L'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Makhnovchina, Makhnovchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Seul avec Bene, siamo qui con Tony Senta a Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato, e stiamo parlando della rivoluzione sconosciuta di Volin, rivoluzione russa, anarchici nella rivoluzione russa. Stavamo parlando della storia dell'Ucraina, per l'appunto, della Makhnovichina, Nestor Makhno, i rivoluzionari anarchici che combatterono contro la reazione e poi contro lo strapotere bolscevico e sovietico. Che racconto fa Volin di questa esperienza? Ma un racconto in presa diretta, dal momento che la visse appunto di persona, e fa un racconto molto particolareggiato anche dei conflitti militari, ma anche delle realizzazioni sociali. Contiamo che si parla di una popolazione di circa 30 milioni di persone in Ucraina, e Volin ci dice che 7 milioni di questi erano fortemente influenzate dalle idee di Makhno, quindi dalle idee libertarie. E effettivamente, più che idee nello specifico anarchiche, si tratta di idee basate appunto sul concetto di libertà, di autogestione. È una tendenza libertaria questa del movimento makhnovista, che si manifesta attraverso dei caratteri particolari: una profonda diffidenza verso i non lavoratori o i privilegiati, il rifiuto di ogni dittatura sul popolo da parte di organizzazioni esterne, e l'idea di un'autoamministrazione. Ancora una volta usa in maniera significativa questo termine, che a me piace molto: autoamministrazione libera e completa dei lavoratori stessi nelle loro località, ovviamente non in maniera autarchica, ma in maniera libera, certo, ma federandosi tra loro, quindi con continui congressi, con continui scambi. Effettivamente l'influenza, diciamo, ideologica e ideale dell'anarchismo riuscì a contaminare milioni di persone. Ti chiedo, a nome dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, diciamo un'opinione su questo testo, su questo bel tomo che hai letto per noi e che hai dimostrato di conoscere piuttosto bene, diciamo, però che hai masticato parecchio. Cosa ci può comunicare il libro di Volin? Il libro di Volin ha una molteplicità di messaggi. Secondo me è un libro da non perdere, difficile se volete nella lettura, nel senso molto lungo obiettivamente. A me è rimasta in mente una frase nella sua semplicità, che è la seguente. È una frase che lui, Volin, dice proprio ai bolscevichi al potere, dice: non vi fate illusioni, il potere non è mai una palla di sabbia che a forza di rotolare si disgrega, ma è sempre come una palla di neve che più rotola e più aumenta di volume. Una volta al potere, voi farete come gli altri. È proprio quello che è successo. Infatti, Tony, guarda, ti chiedo un'ultima battuta, perché siamo in chiusura, su questo centesimo anniversario della rivoluzione russa. Che impressione ti ha fatto da storico e anche da militante, diciamo? Una sensazione di profonda immaturità e che segna, io credo, segnala una certa crisi. Cioè, c'è stata una rievocazione di qualcosa di come fosse esotico, molto lontano, seppellito, inerte ormai, e non c'è stata una riflessione critica su qualcosa che poteva e potrebbe essere vivo se si analizzassero gli errori, gli sbagli, e si provasse, come dire, a fare meglio. Bene, un giudizio abbastanza lapidario che direi che in buona parte condividiamo. Allora, siamo in chiusura, ringraziamo Tony Senta per essere stato con noi qua a Vallun a presentarci Volin, la rivoluzione sconosciuta. E velocemente riepiloghiamo gli appuntamenti. Innanzitutto, Reggio Emilia, 1 e 2 dicembre 2017, convegnone Gli anarchici e la rivoluzione russa, promosso da Biblioteca Panizzi e Archivio Famiglia Berneri Chessa. E manifestazione oggi pomeriggio a Roma, in cui abbiamo mandato la nostra Debs, 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Torniamo al prossimo fine settimana, che è 2 dicembre, Festival della letteratura antifascista a VAG 61. E un'ultima segnalazione editoriale, non è in tema, però vi suggeriamo la lettura del numero di settembre-ottobre di Azione Non Violenta del 2017, numero 623, che titola giustamente Restituire l'onore ai disertori fucilati, numero speciale che viene dedicato al ruolo dei fucilati durante la Prima Guerra Mondiale. Una bella voce, un bel numero che vi consegniamo. ringraziamo. Per oggi è tutto, grazie mille ancora a Tony Senta. Grazie a voi. E buon proseguimento di giornata da Frey.